la versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, 16:31 primi 40 secondi. Oscar Giannino vi saluta come sempre per l'ascolto in diretto in podcast. Vi ricordo l'indirizzo, la versione di Oscar, @radio24.it. Se volete intervenire, questa è una puntata dedicata alle donne, 800 24 00 24, e vi dico subito, traendo spunto da due set di dati rilasciati dall'Istat in questi giorni, il primo sulle casalinghe, lo avete visto sui giornali, e poi quello sulla povertà assoluta, che anch'esso avete visto sui giornali stamattina, mi limiterò da quello a ricavare qualche spunto, perché il problema della povertà assoluta, A, B, dalle cifre dell'occupazione femminile, C, dalle cifre totalmente divergenti di quali sono i risultati per genere delle donne rispetto agli uomini invece nella formazione, dal ciclo dalla secondaria all'università e così via, la domanda diventa: in un paese che non è per giovani, e questo lo avete capito, visto che del 25% di PIL di spesa sociale la stragrande maggioranza va a chi è più anziano e una porzione infinitesima, 5 volte inferiore rispetto alla media europea, va invece a chi è più giovane. Questo è lo squilibrio tra generazioni del welfare. Però c'è questo altro enorme squilibrio che riguarda il genere in termini di, cioè le donne, cioè in termini di occupazione, minore salario, enorme rispetto agli altri paesi europei, maggior peso del lavoro non retribuito in famiglia e cura parentale, a fronte invece di ottimi risultati, cioè migliori, dei maschi quando più giovani ci si forma. E la mia domanda diventa: ma come mai non ci sono segni evidenti di protesta su questo? Cioè, lo diamo per scontato che sia così, che all'agenda politica, poi al di là delle chiacchiere, questo fattore non interessi, perché negli anni di crisi forse è stato più grave considerato il fatto che erano gli uomini a perdere il lavoro, eccetera, eccetera. E insomma, avremo due ospiti, io porrò questa domanda a loro, perché la mia è proprio una curiosità da osservatore, a dire la verità. Ricapitolo, se volete telefonare lo sapete, 800 24 00 24, ricapitolo alcuni di questi dati e non la faccio lunga. Cominciamo proprio da l'approfondimento sulla povertà in Italia rilasciato dall'Istat ieri. Avrete forse visto la stima 2016 è quella di 4.742.000 individui in povertà assoluta per 1.619.000 famiglie. Ecco, qual è l'aspetto di genere più rilevante ai fini del discorso che facciamo oggi? Il fatto che la povertà assoluta aumenta tantissimo in proporzione al numero di figli minori. Quando poi si arriva a 3 o più figli minori diventa tragica l'impennata. Ecco, e che cosa vuol dire questo? Vuol dire che ovviamente in questa parte, ohimè, tragicamente ampia di popolazione del nostro paese, quella in povertà assoluta, il carico che si determina per la difficoltà di avere così basso reddito, per ciò che vi dirò subito dopo, finisce per esercitarsi più per le donne che compongono queste famiglie con più figli in povertà assolute che per gli uomini. Voi direte: ma perché? Ecco, altro set di dati. Guardiamo l'occupazione e l'occupazione non retribuita. Se andiamo a vedere i dati ufficiali dell'occupazione nel nostro paese, il nostro paese nel 2016 ha di poco superato il 60% come media generale nazionale degli occupati, quasi il 61%, quasi il 61%. Però questo 61% è la media di due dati molto diversi, perché l'occupazione genere uomini è oltre il 71, quasi il 72%, quella delle donne di poco superiore al 50, sfiora il 51%. Per capirci, rispetto al nostro 51% di donne occupate, ecco, chi fa peggio di noi? Solo un paese, la Grecia. La Svezia siamo al 75%, la media europea dell'occupazione femminile è comunque il 61,2%, cioè più del 10% nel nostro paese. Naturalmente poi a questo, che è la media nazionale, cioè solo una donna su due occupata, ufficialmente sono tutti dati dell'occupazione ufficiale, si aggiunge un ulteriore gap che è quello territoriale, perché ovviamente, o comunque, ovviamente come serie storica, però se non lo sapete, comunque nel centro-nord la partecipazione al mercato del lavoro da parte delle donne è significativamente più elevata, mentre invece al sud scende di altri 10 punti, per essere chiari. Quindi una donna su tre a malapena lavora nel 2016 nel nostro paese. Terza serie di dati, quello che riguarda, a fronte di una percentuale di occupazione così bassa, quello che ricaviamo invece da il focus sulle casalinghe in Italia rilasciato il 10 luglio sempre dall'Istat. Le casalinghe in Italia nel 2016 sono 7.338.000, quelle che si dichiarano casalinghe. La loro età media è alta, 60 anni. Il 42% di loro dichiara di vivere in una coppia con figli, solo un quarto in una coppia senza figli. Ma qual è la cosa rilevante dopo il primo dato, quello sulla povertà assoluta per numero di figli, e il secondo, la bassa partecipazione al mercato del lavoro? È che la stima che fa l'Istat delle ore di lavoro non retribuito per attività domestiche, cioè cura di bambini, adulti, anziani, volontariato, aiuti informali tra famiglie, eccetera, eccetera, è stimata in 71 miliardi e 353 milioni di ore di lavoro non retribuito. Di questi 71 miliardi, le donne ne effettuano 50 miliardi e 694 milioni, cioè il 71%. Produzione familiare non retribuita, si chiama così. Come vedete, anche in questo caso, questo numero, per quanto si possa discutere sul criterio statistico per stimarlo, è un numero che è l'effetto anche sia della povertà per numero di figli, A, B, del fatto che c'è una bassa partecipazione al mercato del lavoro. Terzo, cosa significa che sono poi le donne a pagarne, tra virgolette, il prezzo in termini di lavoro non retribuito all'interno della famiglia. Eppure, e ho finito con i dati, però sono importanti per capire che ci sono evidenze numeriche per porre la domanda, non è una banale questione di femminismo. Se andiamo a vedere che cosa succede invece quando nei canali della formazione pubblica e nei dati che abbiamo, si ribalta il tutto, perché gli esami di scuola media inferiore il 38% delle ragazze ottiene 9 su 10 contro il 29% dei ragazzi. Alla fine del ciclo di formazione delle superiori, il voto medio di diploma per le ragazze è 78,3 centesimi, quello dei ragazzi 75,2. Le ragazze sono quelle che nel nostro paese subiscono meno dei ragazzi il ciclo dell'interruzione del ciclo formativo, cioè continuano in maggior numero a studiare, più di quanto non dica il fatto che ci sono più donne che uomini nelle corti anagrafiche. Non mi fate questa obiezione, cioè sono di più. Le ragazze svolgono più attività di volontariato, il 20% stima l'Istat, rispetto al 14% dei ragazzi di pari età, stiamo parlando dai 16 ai 25 anni. Il dato della prosecuzione degli studi è molto rilevante, il 75% delle ragazze prosegue rispetto al 61% dei ragazzi, soprattutto nelle università, dove la presenza della componente femminile oramai è non solo maggioritaria, al 60% e con una quota di donne che si laureano che è del 48% contro il 44% degli uomini. Voto medio di laurea, idem, 103,2 per le donne su 110, 101,1 per gli uomini. Svolgono più tirocini e stage riconosciuti nel proprio corso di laurea, 59% le donne e 51% dei maschi. Questo, siccome sono di più oramai nell'università, non è molto fuori linea. Quando però si arriva al mercato del lavoro, ecco, lì si ferma il tutto. Il vantaggio di merito, conquistato in questi numeri, sparisce, si arriva a quei numeri di occupazione che vi ho detto, si arriva al fatto che purtroppo nelle fasce basse di reddito a loro carico va il fenomeno della povertà più che agli uomini, e il peso della cura parentale è distribuito per 4/5 sulle loro spalle. Domanda: di fronte a questa macroscopica evidenza di numeri, statistica, di reddito, di esclusione, perché in Italia non c'è una protesta, un attivismo? Almeno io non la vedo. Ecco, io ho finito di parlare e vi presento le nostre due ospiti, che sono due delle voci che a me che io seguo con più interesse quando ci sono questioni che riguardano la società italiana, non solo il genere, però siccome sono anche donne, e cioè Lia Celi, grazie di essere con noi, Lia. Ciao, grazie Oscar di avermi chiamato. E Simonetta Siandivasci, grazie di essere con noi. Buon pomeriggio. Comincerei con Simonetta. Questi numeri aridi, sì, che però descrivono, sì, un paese non solo non per giovani, ma anche non per donne. A te, alla mia domanda provocatoria, che cosa viene di rispondere? Ma è una questione molto complessa, che però a me fa venire in mente qual è la cosa che più mi dà fastidio quando se ne discute, perché di queste cose magari non arrivano in piazza, però se ne discute tanto. Immagino. E cioè l'idea che il governo della famiglia, che è poi il vero problema, no, è l'ostacolo principale, debba stare nelle mani delle donne. Noi siamo fermi a quello che scriveva Mill nell'Ottocento, cioè che tutti i tipi di moralità pensano che le donne vadano così erudite, educate al fatto che il loro unico dovere morale è vivere per gli altri. Noi abbiamo questa, ma però non è più così nel costume italiano da 30 anni, o no? O sbaglio io esattamente. Tu dici di no. Non è così. No, non è così nel costume fino a un certo punto. Il problema è che noi abbiamo una politica che ragiona in questi termini. Politica, la politica. Ora, io lancio però questo appello agli imprenditori italiani, perché gli imprenditori italiani, a differenza dei nostri politici, lo sanno molto bene che il vero welfare non è quello woman friendly, ma è quello family friendly. Sì. E noi abbiamo esempi di imprenditori molto illuminati che hanno capito questa cosa e cercano di stare vicini non alle donne ma alle famiglie, sì, e non soltanto nei mesi vicini alla maternità, ma in tutto il ciclo della vita dei genitori, che appunto devono fare i genitori. Incredibilmente hai poi uno Stato che, anziché prendere esempio dal privato, fa affidamento al fatto che c'è il privato. Le donne in piazza non scendono su questi temi, così come non scendono, non si indignano, le femministe non si indignano per il fatto che le casalinghe dovrebbero guadagnare 7.000 euro al mese e invece ne guadagnano, boh, tu mi insegni quanto. Hanno una pensione che arriva a quanto? 500-600 euro al mese. Se va bene, gli danno la minima, ecco, la minima integrata, esatto, socialmente. Probabilmente perché sono dentro lo schema ottocentesco, per cui le donne sono capaci di reggere il mondo. Aldo Cazzullo dice che erediteremo la terra, e io invito tutte le mie compagne di genere a chiamare un notaio e rifiutare questa eredità, perché non è scritto affatto da nessuna parte. Cioè, quello che voglio dire adesso, al di là delle battute, è che culturalmente ci manca l'idea che la famiglia sia di tutti e i doveri che derivano dalla famiglia sono equamente spartiti, ma non vale soltanto per l'Italia, Cioè, ci sono un sacco di indagini. No, certo. Il fenomeno di genere c'è come dovunque. Diciamo che in Italia è tragicamente più significativo. Comunque, io mi ero dimenticato di dirlo. Simonetta Siandivasci scrive per il Foglio, La Verità, l'inchiesta, quindi insomma è una poligrafa. Allora, adesso abbiamo un minuto di traffico. Io però temo di dover chiedere a Lia Celi, appena torniamo, giornalista, autrice satirica anche lei, se il problema non è di voi donne più giovani, che avete un po' mollato. Non voglio, io non sono un collettivista, sono un individualista, però La cosa che mi colpisce, molte di voi sono di successo, impegnatissime, eccetera, eccetera, ci sono pieno di donne manager, non quanto dovrebbero essere, ma insomma molto di più negli ultimi anni che prima, però è come se a chi sta più in alto nella catena del successo riconosciuto, ecco, questi temi gli pesasse occuparsene, per così dire. Io faccio spesso l'esempio dell'amministratrice delegata che abbiamo avuto al Sole, che adesso è indagata, ma al di là di questo, che all'inizio della sua carriera qui di manager al Sole, di fronte all'idea, posso chiedere io a CDA, io come amministratrice delegata, di mettere l'asilo nido aziendale? O il CDA mi dirà, e beh, adesso non è che siccome sei donna ci dai questo onere in più? E infatti non lo fece alla fine. Questa però la risposta di Aceri me la dà dopo il traffico. La versione di Oscar. Eccoci qui tornati in diretta, traendo spunto dai dati della povertà assoluta, come colpisce le famiglie più numerose, i dati sulla bassa occupazione femminile, sull'elevatissimo invece risultato di merito nel ciclo scolastico rispetto ai maschi. La domanda è, ma perché questo stato, che non sia per giovani, ok, ma che non è sicuramente per donne, non provoca attivismo, iniziative, eccetera, eccetera? Sembra come una cosa accettata. Allora, Simonetta Cianivacci ci dice, bah, la politica è così, ma allora almeno speriamo nel privato, perché nel privato c'è chi è sensibile a questo e forse è di lì che può partire il cambiamento che sarebbe necessario. Lia Celi, non è che voi generazione più giovane e le più affermate della generazione più giovane di questi temi avete smesso di occuparvene perché facevano un po' anni 70, 80, non so come dire, mi sbaglio? No, ma intanto grazie di così ascrivermi alla generazione più giovane. In realtà io sono di seconda generazione, nel senso che già mia madre è stata una delle prime negli anni 70 che già viveva questa esperienza lacerante del doppio binario, no? Aveva me piccola, però studiava, lavorava e io ho visto già da piccola quanto costa riuscire a tenere insieme tutto. Vuoi dire che noi, le generazioni successive, hanno disimparato a pestare i piedi, a rendersi sgradevoli come le nostre madri femministe hanno saputo fare senza paura, ti dico di sì. Penso che nelle nuove generazioni ci sia una terribile paura di dispiacere. Noi vorremmo avere le cose che vogliamo, che ci servono, però senza che nessuno ci dicesse state rompendo i coglioni, scusa. No, no, certo. Anche perché viviamo in una cultura fin da piccole del compiacere, cioè tu mi parli di questi grandi risultati delle ragazze a scuola. Spesso però, e te lo dico da ex prima della classe, non c'è la volontà di perseguire un sogno, un obiettivo, una passione. Noi andiamo bene e facciamo le brave perché vogliamo che i nostri genitori ci dicano brave, vogliamo che gli insegnanti ci dicano brave. No, quando dai. Si perde questa voglia di fare il nostro dovere, cioè di in qualche modo assecondare le aspettative altrui, ci perdiamo. Quando dobbiamo prendere in mano i nostri sogni, capire cosa vogliamo veramente, scommettere su noi stessi, investire anche a prezzo di rinunce, ci perdiamo un pochino, no? E allora magari appunto c'è il fidanzato che ci chiede una cosa, i genitori che dicono no, non andare all'estero perché è meglio che stai qui vicino, allora cominciamo a dire tanti sì e come per la monaca di Monza, sì dopo sì ti ritrovi in la sventurata risposta che non vuoi. La sventurata risposta. Io conosco tantissime donne invece che hanno una tenacia di passione, hanno anche sfasciato molte famiglie e così via, ma questo poi capita, non mica significa inconseguenza, significa, cioè, ne conosco anche tante capaci di dire no, però poca solidarietà. Questo è il problema che vedo io, poca solidarietà. Faccio un esempio, siamo costellati di governi europei in cui le donne hanno posizioni di prima fila, mica solo la Merkel, mica solo la Merkel. Cioè, in Gran Bretagna la premier scozzese è una donna, la Sturgeon di grande levatura, la May non di altrettanto grande levatura, ma comunque è donna anche lei, la capa del Tory in Scozia, in cui io spero molto, è una una donna oltretutto molto connotata per le sue battaglie di genere e di sesso, visto che è omosessuale, ed è una 100 volte meglio della me, se mio giudizio personale. Qui in Italia, in politica, c'è stata una regressione, cioè le donne sono corifee dei leader di partito. Questo è il punto di fondo. Qualcosa vorrà dire, perché questo significa minor capacità di incidere nell'agenda politica. Sentiamo al volo due ascoltatori. Francesco di Pisa, un uomo. Che dici, Francesco? Sì, buonasera Oscar. Sì. Intanto complimenti. Niente, allora, io vorrei, sono tanto d'accordo con la sua ospite e devo appoggiare, diciamo, le tesi dell'ospite, in quanto storicamente purtroppo le donne si sentono quasi obbligate a sacrificarsi per... si sentono obbligate. C'è chi li obbliga, cioè noi. Parliamoci chiaro. C'è chi li obbliga, virgola, cioè noi maschi. È una questione di amor proprio e voler bene alla famiglia. Cosa che noi uomini, parlo da uomo, cioè noi uomini siamo più propensi, purtroppo, a farci cazzi nostri. Fortuna, al lavoro. Ma io, Oscar, io lavoro da quando ho 15 anni. Scusa Francesco, il dato del lavoro non retribuito dice che gli uomini hanno molto più tempo libero delle donne, è il contrario di quello che dici tu, molto più tempo per sé è libero, è quantificato anche quello dall'Istat, ripeto, la metodologia è un po' così, quindi io lo capisco quello che dici, però i dati sembrano dire che invece gli uomini sono molto più attenti a trovare tempo per sé, oltre che più soddisfazioni per sé nel lavoro. E quindi sai come, comunque il tuo punto di vista lo rispetto e vale come il mio, non è che, però i numeri sembrerebbero non darti ragione. Mariella da Siracusa, che dici? Allora, io dico questo, intanto buon pomeriggio e grazie per aver affrontato questo tema. Allora, la mia generazione, che è quella un po' sessantottina, insomma, ho 62 anni, lo dichiaro. Allora, noi ci abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare, cioè io non mi sono risparmiato in nulla. E la generazione successiva? Ecco, allora, mi viene un dubbio, forse il fatto che noi alla fine ci siamo battute tante ma abbiamo ottenuto poco sta scoraggiando le giovani generazioni. Possiamo chiedere un momento, ottima domanda, Simonetta Sciandivasci, come rispondi telegraficamente? C'è del fondamento nel dubbio della nostra ascoltatrice? Sì, ma non è una questione del fatto che non hanno raggiunto molti risultati, è che probabilmente a questa generazione non sono piaciuti i modi. Cioè il punto è che noi vogliamo stare tranquilli, non vogliamo stare di nuovo in guerra, e sul piede di guerra per cose che dovrebbero essere assodate, e questo è il punto. Quindi uno pensa che possa cambiare il mondo. Io capisco quello che dici la prima parte, cioè la non condivisione degli aspetti in cui la generazione precedente è scesa in piazza, cioè io sono mia, eccetera, eccetera. Dall'altra parte però, se uno non combatte non ottiene niente. Lia Celi che dice? Assolutamente d'accordo, visto che oggi è il 14 luglio, se i francesi stavano a aspettare che domani tutto si mettesse a posto. C'erano ancora i Borbone, ecco, esattamente. Cioè, siamo ancora al giuramento della pallacorda, diciamo così. Si aspettavano che le riforme avvenissero da sole, sì, a campacavallo. Insomma. Allora, la conclusione del tutto inappropriata è che c'è bisogno di prendere una bastiglia, care ascoltatrici, più giovani, soprattutto voi, mi sembrate un po', e io però sbaglio, è sbagliato generalizzare, ma qualche elemento di troppo dell'assegnazione del dibattito pubblico sulle donne c'è nel nostro paese. Non parliamo dei giovani poi, ma quello è un altro problema aggiuntivo. Continuate su Radio 24, l'appuntamento domani dalle 10 alle 12. Vi stupiremo perché tireremo fuori delle cose sulle banche che non sapete ancora. Per tutti voi vale il Naspi, mentre per i dipendenti di troppo di Intesa ci sono 7 anni di pensionamento a spese vostre. Appuntamento domani dalle 10 alle 12.